versione di Microsoft Office Word, sono essere umano, persona, individuo, genere umano, il prossimo, umanità, gente, maschio, adulto, addetto, operaio, tecnico, giocatore, atleta, soldato, militare, elemento, unità, un tizio, un tale, uno, qualcuno. Mentre i sinonimi di donna sono femmina, gentil sesso, bel sesso, sesso debole, signora, signorina, donna di servizio, domestica, cameriera, collaboratrice familiare, golf, governante, dama, regina. È evidente che ancora oggi le donne rimangono sostanzialmente, per la maggior parte, donne di servizio, domestiche, cameriere, collaboratrici familiari, golf, governanti, anche in virtù del solito pregiudizio. A donne di servizio, domestiche, cameriere, collaboratrici familiari, golf, governanti, non sarebbe richiesta razionalità e oggettività alcuna per svolgere in modo degno le proprie mansioni. Tacciate di irrazionalità, emotività, passività, soggettività. Le donne non vengono incoraggiate a nutrire fiducia nelle proprie capacità mentali e di conseguenza ad aspirare a posizioni di spicco sul piano culturale e professionale. Non è certo un caso se si assiste da una parte al proliferare di veline, letterine, troniste, modelle e dall'altra a un'assoluta rivalutazione del ruolo delle donne in quanto essenzialmente madri, a tal punto che a volte sembra di essere ritornati a una rappresentazione conservatrice alla Jean-Jacques Rousseau. Le donne devono essere accondiscendenti e sottomesse, capaci di soddisfare i soli bisogni del proprio partner e dei propri figli, mogli, madri e null'altro. Si vedono le pagine dedicate a Sofia nell'Emilio 1762. A parte rarissime eccezioni, John Stuart Mill per esempio, i grandi filosofi si adoperano attivamente per rendere la situazione ancora più fosca, dimostrandosi ben poco filosofi nelle loro opinioni sulle donne. Direi anzi che i grandi filosofi hanno dato prova di sostanziale irrazionalità, coltivando credenze del tutto gratuite o frutto di assurde superstizioni. Per Aristotele, non solo le donne sono maschi meno amati, ma l'essere donna coincide con l'assenza di potenza. Per Nietzsche, le donne consistono primariamente in un mero passatempo per gli uomini. Per Levinas, la donna viene a coincidere con il raccoglimento, l'interiorità, la casa. Anche se non è qui il caso di dilungarsi sui tanti filosofi e le tante filosofie che nutrono disprezzo per le donne e mal teorizzano sulla cosiddetta natura femminile, non giudico il compito affatto inutile, costituisce anzi un buon modo per prendere consapevolezza di un corso della storia della filosofia misogena che ci ha restituito una concezione filosofica coercitiva non solo delle donne, ma anche della sessualità, della famiglia, della maternità. Se i filosofi maltrattano le donne, la storia della filosofia le cancella, si consideri Ipazia. Benché Giovanni Malala ce la descriva come la celebre filosofa della quale si tramandano grandi cose, e Socrate scolastico sostenga che ella era giunta a un tale culmine di sapienza da superare di gran lunga tutti i filosofi della sua cerchia, quanti di noi hanno avuto occasione di imbattersi in volumi di storia della filosofia che fanno cenno al pensiero di Ipazia? A dire il vero, c'è un volumetto splendido del 1690, Historia Mulierum Philosopharum, che non esita ad ammettere tutta la rilevanza filosofica di Ipazia e in cui viene riportato quanto di illuminante scrive Niceforo. Ipazia era disposta a offrire la sua conoscenza a tutti gli studiosi. Inoltre, quanti erano animati dall'amore per la filosofia, si recavano da lei non soltanto per la sua onestà e profonda libertà nel parlare, ma anche perché si rivolgeva agli uomini di potere in modo onesto e prudente, e non sembrava cosa indecorosa che lei si trovasse in mezzo a un'assemblea di uomini. Tutti la trattavano rispettosamente per la sua straordinaria onestà di comportamento, tutti provavano ammirazione nei suoi confronti quando l'invidia si armò contro di lei. Non so se si tratti di semplice invidia o piuttosto di feroce insofferenza per l'esistenza di una donna di insolite capacità intellettive, che ben poco fa o può fare per nascondere la propria indubbia razionalità. Ricordiamoci che è anche una scienziata di fama. Sta comunque di fatto che Ipazia viene assassinata su ordine, almeno così si racconta, di Cirillo, patriarca di Alessandria d'Egitto. La sostanziale eliminazione filosofica e l'eliminazione fisica di Ipazia altro non sono che chiari sintomi dell'irrazionalità di alcuni esseri umani, di quegli esseri umani che l'hanno appunto duplicemente cancellata. C'è da chiedersi, con consistenza e stupore, è ovvio, se le donne razionali non possano che venire uccise in senso reale, così come in senso simbolico. Forse Ipazia infastidisce anche perché smentisce con nettezza la fantasia secondo la quale le donne sarebbero incapaci di fare filosofia e di fare scienza. Così fanno tutte. E le donne non fanno filosofia e non fanno scienza, almeno, se non in casi davvero singolari, non sullo stesso piano e allo stesso livello degli uomini. Perché mai? Proviamo a mettere la questione nei seguenti termini. Se gli esseri umani devono essere razionali e le donne sono irrazionali, almeno così vuole una consistente tradizione, allora le donne non possono fare né filosofia né scienza, a meno che non possa essere filosofo e scienziato chi non è un essere umano. Ipazia non rappresenta un semplice, antico, isolato incidente che non si è più ripetuto nel corso dei secoli. Limitando l'attenzione alle scienze, è evidente che le donne sono state a lungo estromesse dal sapere scientifico, ma ciò, lungi dal significare che le donne sono inadeguate a fare scienza, mette semplicemente in evidenza una delle tante opposizioni ingiustificate. Uomo capace di oggettività versus donna avviluppata nella soggettività. Se a questa opposizione si aggiunge da una parte la convinzione che della soggettività fanno parte integrante la parzialità, i desideri, le emozioni, i capricci, e dall'altra la convinzione che si possa dare conoscenza scientifica e o oggettiva solo nel caso in cui i soggetti cognitivi conoscono in modo neutro, depurato di desideri, emozioni e capricci, il gioco è fatto. Non ci può essere quindi scienza o conoscenza delle donne in un duplice senso. Le donne non possono conoscere, o perlomeno non in senso oggettivo, cosicché non hanno alcun diritto ad aspirare a fare scienza, e le donne non possono essere conosciute. Come si può afferrare la soggettività? Cosicché risulta superfluo che le diverse scienze si occupino delle donne. In effetti, le diverse scienze si sono occupate molto poco di donne e solo recentemente si è verificata un'inversione di rotta. Sulla violenza. Quando ci troviamo di fronte al fatto che le donne vengono marginalizzate come oggetti di conoscenza, inclusa la conoscenza scientifica, si può parlare a ragion veduta di violenza epistemologica perpetuata nei confronti delle donne. Quando ci troviamo di fronte al fatto che alle donne viene rifiutato lo status di soggetti di conoscenza, di soggetti capaci di conoscere, e quindi anche lo status di scienziate, è preferibile parlare di violenza epistemica. E non bisogna dimenticare forme, per così dire, sottili di violenza, che hanno luogo anche quando alle donne viene riconosciuto, almeno formalmente, il ruolo di soggetti conoscenti. In proposito è sufficiente menzionare Rosalind Franklin, che giunge al King's College di Londra nel 1951. È proprio in quell'anno la sua celebre foto 51, la foto ai raggi X della struttura del DNA, che insieme ad alcuni risultati della ricerca di Rosalind Franklin giunge nelle mani di un suo superiore, Maurice Wilkins, e da qui in quelle di Francis Crick e James Watson. Franklin scrive che il DNA è composto da due catene distinte. Solo in seguito Crick e Watson costruiscono il modello della struttura del DNA. La prima muore di cancro alle ovaie a soli 37 anni nel 1958. I secondi ottengono il premio Nobel insieme a Wilkins. L'episodio è tanto più raccapricciante non solo perché Watson si riferisce a Franklin in termini decisamente fuori luogo e ingiuriosi, in The Double Helix ne parla come di una donna malvestita e frigida, ma anche perché egli ha sempre negato il contributo decisivo del lavoro della scienziata. Sembra aver proprio ragione Jocelyn Bell Barnell, la scopritrice delle pulsar, quando sostiene che le scienziate vivono da mancine in un mondo popolato solo da soggetti che scrivono con la destra. In effetti, questa metafora efficace può essere estesa a ogni donna, nel senso che le donne paiono diverse dagli altri soggetti e si ritrovano in difficoltà a vivere in un mondo di gente che scrive con la destra, dove non c'è posto per la gente bizzarra che scrive con la sinistra. Per di più, c'è una lunga tradizione che giudica le donne mancine, quando all'essere mancino si attribuisca il significato di maligno, cattivo, irregolare, anormale. Già, così fan tutte. Tutte le donne sono mancine. Come si è visto, la normalità femminile può essere tale da condurre a negare che le donne siano esseri umani, negando loro la razionalità. Il medesimo risultato si ottiene anche attraverso una forma di violenza epistemica, la cui matrice è ancora una volta aristotelica. Se infatti ipotizziamo che sia nella natura degli esseri umani aspirare alla conoscenza e al contempo rifiutiamo che le donne aspirino o possano aspirare alla conoscenza, non facciamo altro che ribadire l'impossibilità per le donne di realizzarsi come esseri umani. Questa impossibilità è senz'altro un atto violento, almeno in un'accezione ampia di violenza, quella fin qui applicata, per cui è violento il comportamento di un individuo che causa danni fisici o psichici a un altro individuo. In un'accezione più ristretta, la violenza consiste invece nell'uso della violenza fisica di un individuo a danno di un altro. Si tratta della violenza materiale, che viene considerata la violenza vera e propria, e che Catherine McKinnon, 2006, prende in considerazione per ribadire sotto una diversa angolazione che le donne non sono esseri umani. L'angolazione è diversa perché in questo caso le donne non sono esseri umani in quanto oggetti di violenza fisica. Se infatti fossero esseri umani, non sarebbero costrette a prostituirsi, non verrebbero considerate alla stregua di schiavi sessuali e trattate come tali. Sarebbero esenti dalle umiliazioni delle mansioni pesanti, pericolose, avvilenti, prive di retribuzione. Non subirebbero molestie sessuali, non verrebbero infibulate, picchiate, stuprate. Non si imporrebbe loro di sposare i propri stupratori. Non sarebbero costrette al suicidio per restituire alla propria famiglia quell'onore che lo stupro ha intaccato. Non dovrebbero velarsi né segregarsi dietro i burka. Non sarebbero rinchiuse in case, che in realtà si trasformano presto in prigioni. Non verrebbero messe a tacere, torturate, lapidate, decapitate, uccise, appena nate. Così fan tutte. Tutte le donne sono soggette a una forma o l'altra di violenza. Eppure la violenza perpetuata nei loro confronti, nelle sue variazioni sia epistemologiche sia psicofisiche, viene costantemente sottovalutata. Se da una parte si evita spesso di considerarla tra le palesi violazioni dei diritti umani, così come invece si dovrebbe, dall'altra viene raramente vista come un muro contro cui va inevitabilmente a scontrarsi qualsiasi considerazione delle donne e sulle donne. Per di più, nonostante i comportamenti maschili che danneggiano le donne siano stati identificati come il meccanismo chiave di subordinazione delle donne agli uomini, nonostante si riescano a identificare una vasta gamma di gruppi in cui la violenza si ritrova per lo più declinata al maschile, membri delle forze armate, criminali, molestatori e o violentatori dei membri della propria famiglia e dei propri partner, praticanti e tifosi di sport in cui la forza fisica gioca un ruolo considerevole. Nonostante per alcune statistiche ufficiali siano gli uomini a commettere l'85% dei crimini violenti, si veda Brainness, Connell e Hyde, 2000, le donne stesse continuano a minimizzare la gravità dei comportamenti violenti maschili, dicendo cose come «niente è davvero accaduto» o «non mi ha fatto poi troppo male», mentre gli uomini sminuiscono il significato dei propri comportamenti giudicandoli spesso non violenti, ottenendo a sottovalutare, se non addirittura ad azzerare, i contenuti violenti dei comportamenti stessi. Non inquadrare in modo corretto la complessità del fenomeno ci consente di rifugiarci in un'ipocrisia che preferisce esiliare questa o quella violenza in certe classi sociali, religioni, etnie, come se la violenza non riguardasse ogni essere umano. Scrivo essere umano, e non solo donna, di proposito, perché non credo che comportamenti violenti o comunque aggressivi, sebbene prevalentemente maschili, siano esclusivamente tali. Non possiamo e non dobbiamo negare che vi sono donne violente che sfruttano, perseguitano, tiranneggiano, mutilano, seviziano se stesse o gli altri esseri umani. Per fare chiarezza occorre comprendere meglio le donne, interrogarsi sulla loro identità, sui loro rapporti con gli altri, sul loro relazionarsi con il mondo esterno. Tra l'altro, comprendendo meglio le donne, riusciamo ad aprire gli occhi di fronte a diversi tipi di oppressione che riguardano più di un ruolo femminile, biologico, familiare, professionale, sessuale. Si vedano Bergman 2005, Brown-Millen 1975, Firestone 1970. E senza confondere questo quanto è naturale e quanto è normale, normalizzante, normalizzato, giungiamo inevitabilmente a percepire che etichettare qualcosa come naturale lo si fa anche con la violenza. Non comporta che quel qualcosa non sia passibile di condanna culturale, etica e giudiziaria. Il libro continua con un paragrafo sulle mie donne, in cui Nicola Vassallo dice appunto di cosa tratterà il libro e parla delle autrici dei vari, delle varie parti del libro: Eva Cantarella, Francesca Rigotti, Laura Boella, Claudia Mancina, Claudia Bianchi, Alessandra Tanesini, Pieranna Garavaso. E spiega così il motivo per il quale ha scelto appunto che diverse donne scrivessero alcune parti del libro. Ho scelto le mie donne in base alle loro specifiche competenze. Nella convinzione che questo volume non potesse essere scritto da un singolo autore, io comunque non avrei avuto la presunzione. Semplicemente perché nessuno possiede le competenze sufficienti per trattare temi tanto diversi come quelli qui contenuti. Conosco personalmente alcune mie donne, altre no. Alcune le conosco bene, altre no. Di alcune magari penso di conoscere molto, quando invece conosco poco. La conoscenza degli altri non è affatto una conoscenza facile da ottenere e mantenere. Sono per tutte donne. E se è vero che di ciò vado orgogliosa, non tanto perché di donne possono scrivere solo le donne, quanto perché il palcoscenico viene riservato una volta tanto alle sole donne, è altrettanto vero che avrei gradito coinvolgere qualche uomo per la mia opposizione nei confronti di ogni forma di discriminazione. O forse sarebbe stato preferibile che noi tutte avessimo optato per apparire con nomi di fantasia, difficili da catalogare come femminili o maschili, in modo che sarebbero stati giudicati solo i nostri scritti e non essi sulla scorta del nostro sesso e genere di appartenenza, proprio come Charlotte Bronte scelse di pubblicare Jane Eyre con il nome di Carter Bell. Una donna o un uomo? Chissà. Artista, questo sì. Eppure apparire in quanto donne, con i nostri nomi reali, può avere un senso che non consiste tanto in quello di essere singolarmente riconoscibili e individuabili, bensì in quello di venire identificate in quanto donne, che proprio perché donne, così come del resto accade agli omosessuali e alle persone di colore, hanno sperimentato e sperimentano modi di venire marginalizzate ed escluse più ampi di quelli solitamente sperimentati dagli uomini bianchi ed eterosessuali. È tuttavia fonte di rammarico che tutte noi siamo privilegiate, almeno nel senso che siamo donne colte, con un riconoscimento ufficiale e formale all'interno dell'Accademia. Sarebbe stato corretto dare voce anche a donne meno privilegiate, il cui punto di vista sulla condizione femminile è senz'altro diverso dal nostro e forse più incisivo. Non siamo però donne tutte uguali. Tra noi ci sono differenze di storia personale, classe sociale, preferenza sessuale, religione, età. Non presentiamo invece differenze di colore, siamo tutte bianche e ciò mi spiace particolarmente. Oggi gli errori scientifico-filosofici a proposito della razza sono più manifesti e noti di quelli che riguardano il genere femminile e maschile. Ma è difficile da contestare il fatto che nelle nostre società il diventare donne o uomini si intrecci con il colore della propria pelle in modi spesso scorretti. Anche l'ormai imprescindibile ripensamento degli stessi concetti di genere e razza, sempre che i concetti stessi abbiano una qualche giustificazione o un qualche valore, non sempre porta a cancellare le superstizioni che legano certe caratteristiche fenotipiche a certi specifici tratti psicocomportamentali, superstizioni innegabilmente più evidenti a chi le ha vissute o le vive in prima persona rispetto a chi le osserva dall'esterno. Le mie donne bianche hanno però tutto un corpo, oltre che una mente. Se sono state scelte perché credo che abbiano una bella mente, il loro corpo non è del tutto secondario, anche al fare filosofia. Al pari degli altri esseri umani, ogni filosofa possiede un'identità e l'identità fisica viene modellata sulla base di norme che interiorizziamo e che finiscono con l'ossessionarci attraverso metafore e immagini di vario tipo, il cui peso sulle nostre esistenze non è indifferente, si veda AIES 2007. Il compito di noi filosofe diviene anche quello di trasgredire quanto più possibile queste norme, al fine di comprendere la natura reale delle tante donne che ci circondano e i confini entro cui viene loro consentito di esprimere le loro libertà. Al di là degli stereotipi che impongono ai corpi, body piercing, chirurgia estetica, diete, droghe, fitness, tatuaggi e via dicendo, nella direzione univoca dell'artificialità. Al contempo, noi filosofe dobbiamo essere ferme nel nostro trasgredire fino in fondo, per non cadere neanche nella facile tentazione di appellarci al corpo naturale, specie nel caso in cui ci si riferisca a una naturalità priva di riscontri scientifici e mero prodotto sociale di una delle tante normalizzazioni del femminile. Il testo chiaramente continua, va avanti, noi sicuramente ci ritorneremo perché è un testo molto interessante, Donna Mapparpe di Nicola Vassallo, e vi salutiamo e vi lasciamo alle altre compagne. Grazie. Ciao. Ciao. My feet descending into air. The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like the runners in a stream, and they spread themselves before me. Beckoned. late. Said, boys, I've had enough.